diminuito i dazi e cambiati in pratica il tipo di frequenza, c'è 3G, 4G e 5G, in pratica metti 4G e stanno utilizzando tutti i 4G, 5G non lo utilizza nessuno, capito? Non so perché, forse perché o è troppo veloce, non lo so, non riescono a cavare nei piedi, oppure comunque stanno usando il 4G adesso. Minchia, c'è un leggero splatter dall'11, ci sono gli americani che hanno potenze, modulazioni spropositate. Sì, praticamente Antonio, il 5G usa, mi pare, tre frequenze, credo, dovrebbe usare fino a tre frequenze. Una credo che sia sui 700 MHz proprio, ed è quella che permette di passare meglio attraverso i muri, eccetera, attraverso le concrezioni, così si chiamano i muri, insomma. Poi ce n'è una intorno intermedia, comunque credo siamo già sul giga, o 2 giga, adesso non mi ricordo. Però la terza frequenza è molto molto più alta, direi quasi critica, è proprio un'emissione ottica lì, basta un muro, anche forse il vetro doppio di una finestra che non ti entra nemmeno segnale, capito? E quindi diciamo ogni banda, ognuna di queste bande ha dei pregi e dei difetti. Forse quella più alta di tutte, se ha una larghezza di banda migliore, non so come, dovrei vedere su internet, però risente molto ma molto degli ostacoli, quindi alberi, edifici, capito? Ho capito. L'ho sentito ieri sera, cioè ieri mattina più che altro. In macchina in pratica questo ha comprato due telefonini, ha comprato per il giorno di San Valentino, uno alla figlia e uno alla moglie, e in pratica gli ha detto se poteva fare cambio con un altro telefono, dice buono, però che non sia 5G, e lui ha risposto guarda che puoi c'è questa applicazione qui nel 5G che puoi passare tranquillamente da 5G a 4G e poi il telefono funziona benissimo, dice non sei l'unico, mi ha detto che si è lamentato, è venuto un sacco di gente, si è lamentata e ha portato il telefono da 5G a 4G lasciando sempre lo stesso telefono, però tramite l'applicazione che c'è all'interno. Sì Antone, sì, praticamente tu vai su reti mobili dal menu principale di Android, perché Android reti mobili, e ti fa scegliere come il mio era quale rete vuoi usare di quelle 2G, 3G o 4G. Cioè, volendo potrebbe escludere la 4G per esempio e avere solo la 2 e la 3G, oppure escludere tutte e due e usare solo il 2G, cioè te la puoi selezionare, adesso non so se sia così in tutti gli Android, però te la potevi scegliere la rete da utilizzare. E adesso do un'occhiata su internet per il 5G, che le frequenze che usava. E che io, il mio è 4G, il telefono che ho preso io, l'Alcatel. C'era una telecamera solo, c'era due telecamere e la lampada basta, poi c'era il sensore per il dito, ma non me ne sbatte nulla di questo. E mi segna 4G, mi segna in pratica quando lo accendo. È scritto 4G come tipo di ponte. E ci segna la manettona. Invece gli altri proprio era un casino. Ecco qua, allora mi Antonè, in Italia i sistemi 5G opereranno su tre bande di frequenza, cioè 700 MHz, 3700 MHz, quindi sono già le 3 giga 7, la banda intermedia, ed è un bel, e l'altra è 27 GHz. Immaginati quanto è alta, roba da satelliti, una volta si usavano quei satelliti, 27 GHz, c'è l'ugrido, lì basta un vetro, gira, o il doppio vetro non passa segnale, però quella credo che abbia più larghezza di banda per gli scopi, non so che tipo di scopi, capito? E quindi sì, molto molto all'anima, incredibile, non me la ricordavo così alta. via, lo so. Infatti tutti quanti stiamo parlando da 4G. 5G non le vuole utilizzare nessuno. O magari hanno paura perché di subito avevano detto un periodo che i cinesi in pratica di notte quando tu c'è il telefono manco te ne accorgi, te lo accendono loro stessi, ascoltano tutto, digitano tutto. Io. Comunque, allora bene o male, accetto, accettiamo tutto tanto, le frequenze e vabbè usciamo da qua. Allora 4G poi dipende dall'operatore, certi operatori hanno certe frequenze, certi hanno, quindi le frequenze sono i 600, 700, 1700, cioè 1,7 giga, 2 GHz, 2.3 GHz e 2.5 GHz. Comunque sono anche quelle abbastanza alte, 900 MHz non so nemmeno se ci usino ancora, sarebbe la banda 20 mi pare, 900 MHz, però caspita addirittura 27 GHz, immagini 27.000 MHz, è molto, proprio non millimetrica, decimillimetrica, una cosa allucinante. Va bene, Antonese, io vista l'ora io accendo il microonde e comincio a fare, che poi cuoce da sola mi la roba. Se vuoi rientro, se no mi stacchiamo un pochino e poi sentiamo quando capita. E fa come vuoi, non c'è problema, già sono qua, adesso mi guardo un po' la di TV, mi guardo. E così mi rilascio anche io un pochettino. Tutti gradi ci sono fuori, è un freddo, grazie, boh, cosa rende, ma boh, ci sentiamo dopo al limite, là. Ok, una buon pranzo, se l'ho fatto, e ci sentiamo dopo. Sì, infatti mangiamo adesso, perché abbiamo fatto colazione tardi, e quindi fame prima non ce n'era, adesso un po' di più, dai. Ok, Sant'Antonio, buona serata, io mangio qualcosa, poi un po' di abbiocco, un po' di riposino e poi vediamo cosa fare. Ciao, buona serata, ciao. Eia, ciao, ciao, ci vediamo. Hola, c'è qualcuno qua? Oh, oh, ia dimmi. Oh, Natali. Ehi, ia dimmi. Ciao, sto provando un microfono, ti ho mandato il video. Il microfono digital mercato. Com'è? Ah, è buono, è buono. Il computer ci ho spento, aspetta un attimo che vedo il video. Questo qui stai andando bene. Ehi, è un bel microfono, però è enorme, capito? È enorme. È sensibile. Oh, yeah. Già l'ho visto, quello grigio. Sì, quello grigio scuro sto usando, siccome non è un microfono di cosa, capito? Però io l'ho adattato tramite il mixer, perché va 40 volte questo microfono. Guarda, però questo è il picchio di modulazione, molto alti, sono anche, diciamo, a media potenza dal mixer. E ho capito, potresti abbassare anche un po' di più, se abbassi perché stai uscendo troppo forte. Ho abbassato, guarda un po', vedi un po' se va meglio adesso. Sì. L'importante è che sia chiara, perché stavi uscendo tutto bu, capito? Ascolta, regolami i bassi, i medi e gli alti. Io, allora, questi sono... sono tutti chiusi, ho notato che se li apro così sono a metà, mi sembra troppo chiusa, mi troppo cupa. No, vanno bene. Allora, se li porto bene? No, adesso c'è stato un disturbo proprio della modulazione, a tratti sta riuscendo, capito? Allora lo rimetto a metà, ok? Ehi, lascialo com'era, che almeno è chiara e tutto, è forte pure la radio. Mentre gli altri, se te li porto così, che cosa succede? Schifo fa. Si è abbassata la radio. Più a metà. Questi sono i medici, no, vanno si scende proprio. Capito, oltre che c'è la bassata sta uscendo tutto a tratti. Sì, tutto cucciminato, non si capisce quello che dici, dici tutto a tra. È disturbata la radio. Oh, oh, adesso? Adesso stai uscendo, però è bassa. Sì, sempre. Stavi uscendo, però il passaggio era breve e non ho visto se era troppo, se andava bene. No, era breve. Poi si è toccato un po' di lì. No, no, no. No. No. No. Che da qua avevo abbassato. Se no, non facciamo male. Guarda, il primo che mi hai fatto, il primo di tutti che mi hai fatto andava bene. Adesso proprio Radio Nisba. L'alternata avevi, è uscito un rumore, tu, un rumore così esce. No, ci deve essere qualche falso contatto perché sta facendo quel rumore sempre in radio niente. La base di tutto. Vuota che vuoi tutto. Ehi, ma è qua, ehi, ma c'è qualche falso contatto, sta toccando qualcosa, perché fa sempre quel rumore lì, e non hai radio. Il jack. Adesso ci è uscito bene. Il jack ho sentito. Come quel jack deve essere? Là che c'è così. Con girata che non tocca più nulla. No, ti ho marcato il microfono, giusto era. L'ho collegato così per provarlo. Se ne ho abbassato il microfono, ma non si è mai venuto in formato famiglia. Già lo so. Chi è che voleva entrare prima? Avanti. Avanti l'amico che voleva entrare. Ho sentito lampa di tutto. Chi è? Avanti. Ma forse non vuole entrare, boh. Ha detto lampa di tutto, però non vuole entrare, boh. O si è stancato. Aspetta, ci conservo un po' di roba, dai. Mixer e quant'altro. Ah beh, il microfono ci sta mercato. Cazzo di è. Ma non è che a spazio va bene, perché con il microfono, caspita, si aumento. Dici voci, però è grande. È grande per il posto che ho io, non per, capito, con il microfono. Poi c'è questo gambo lungo. Ti vai a chi c'hanno quelle capsule dinamiche che vanno dai 20 ai 40 volt, infatti il mixer gli sta dando più di 40 volt per farlo funzionare, se no non esce, cioè esce ma non spingemi, capito? Se questo sta andando bene, la modulazione è chiara e poi si buca. E questo è quello del video, qua adesso staccato i 40 volt, li ho staccato. Non so come uscirà, adesso piano piano si scarica la tensione, però non so come esce, se sto sparendo, così è staccata l'alimentazione del Phantom praticamente, è staccata. E dice più basso di radio, com'è che gli manchi l'alimentazione? Beh, sta andando e scaricandosi. Lo vedo dalle luci perché mi indica le luci andando e spegnendosi. Infatti anche quella del microfono la si è spenta. Quello di prima l'hai visto addosso, quello lì adesso è spento. Perché? Perché rimane l'alimentazione. Adesso io. Gli ho fatto di nuovo 60 volte. Si è accesa la luce del microfono ed è di nuovo nata l'operazione, diciamo. Io ho capito, ma quello spinotto non sta andando bene perché fa dei rumori. Ho visto che ho saldato i fili così, non so se l'hai visto nel mixer. Lo spinotto, giusto per provarlo, ho fatto un rimondo tutto canto che siamo qua giù lungo sopra i nocchi. E il rimonizzino, allora? Meno male che mi ha fatto questi adattatori, questo adattatore con la scatolina con i cavi saldati dentro che, e poi esce dalla radio, escono due jack, uno che va al mixer e l'altro adesso in base al microfono che devo usare. E ho capito, andrà bene. Ha mancato poco fa, dove sei, ha toccato qualcosa? Studio. Ah, pa' di 30 onda ambulana. Sicuramente non vuoi parlare tra le colonizzazioni. Attenzione, Marcolino Condor, sì. C'è qualcuno qua? Cos'è quello? Io mi sposto, non c'è nessuno. Ciao Luca, ci sentiamo alle truce. Anche io sto ascoltando da altre parti. E ok, da. Attenzione Franco. Beh, chi è? Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Tutto lì, tutto lì. Eglia. Com'è la mia radio? Quell'ecco non si capisce proprio nulla. E così? Abbassa ancora quell'ecco. Non ne ho ecco adesso. Come non ne hai? No, adesso non ne ho. No? Così sì e così no. Lascialo così che va bene. Bene, vi ascolti a me, sì. Sempre a fondo scala, radio 5x5. Ehi, K, già va bene allora, dai. K di Rogero. Beh, un attimo. Sto ricordando una questione. Hola, così fa meglio. K. K che va bene. E io ero un grido che andava. Ma ci hanno staccato la corrente stamattina. Dalle 9:15 con esattezza è tornata alle 3:15, una mazza di nevaria. Ma c'era l'avviso, io non l'ho visto, l'avviso attaccato ai pali, ma chi si mandava su come acquisito io. Mi ha chiamato Vittorio, mi ha detto guarda che non c'è luce, arriverà verso le 3 più o meno. Come mai tu in questo guasto così? Sì, ha detto che ha visto anche questi dell'Ene sulla scala, sui pali, aggiustando, capito? E quindi niente, mi sono preso un piccolo ricevitore e mi sono messo in cortile, c'era un bel sole e ho acceso, sentivo quello che volevo sentire. E ho capito. KK. E vabbè, andava. E così che niente, comunque io poco fa sono uscito, ho preso tutta la corrente e posso fare domani cecciata e dopodomani posso fare favata. Cici, ma se cici fai domani, io ho ancora questa roccidine, ma già mi sta passando piano piano, dai. E tu l'hai pizzicata, vero, pizzicata. Io gli da agito che ero influenzato, ma non è chic. Vabbè, dai. La uccidine, sì, vabbè, ma già sto migliorando come voce. E capo, e piano piano la fra. Io ho fatto il toletto la settimana scorsa, cioè inizio di settimana, ho detto tu buono buono fino a sabato, domenica vedi come stai, rimane a riposo. È bello che stamattina sono sceso in campagna, torna, capito? Troppo presto, che se sei ancora così della città. O ti tappi bene una bella sciarpa. Ma infatti. No, vabbè, già sto meglio, dai, non è un problema. Febbre non ne ho, sono a posto. Un po' di raucidine, poi per il resto già va bene. Ah, comunque. Sono andato a MD, praticamente ho fatto il pezzo dove c'è la Dacia. Vabbè, quella strada centrale che scende giù e poi sale, che c'è Castelmoro, il bar, eccetera, eccetera, la rotatoria. E poi stavo girando a sinistra per andare giù all'MD. E lì giù le macchine sabbia veloce, a boom, manco si era allentato, io dentro la rotatoria, cioè che si chiama. Comunque, è entrato anche lui a MD, un tipo poazzanotto. Poi lo incrocio dentro la frutta e verdura, dice ma ti piano puoi andare, l'ho guardato, ehi ma sono arrivato prima io, cazzo ti buona curri, no, giù in preso, guarda che dentro la rotatoria, allora non so che mi accelerai giù e ti miglio in pieno, come ha toccato la mano, vabbè dai, ho sbagliato però, capito, vabbè se sì, è rotatoria, la precedenza è tua, se sei già dentro. Dentro era quasi all'uscita, che se si deve paradura, dal mercato è grosso verso giù, verso le rospini, se si deve paradura proprio. Beh, sicuramente uscì. Sì, vabbè, non guardano niente, ci vogliono quattro occhi oggi a guidare in macchina, se ne vengono addosso neanche della corci, tutto lì. E poi mi dici, sono arrivato prima io, c'ero prima io, ah io non di cazzata gente, che devi rispettare, devi rallentare nella rotatoria, c'è uno della rotatoria, devi filmarti, va a passare a me e poi passi giù, tu sei che appressa. E vabbè. Infatti, faccio un preso la cosa da buchi. E poi si è abbiato un bel casco di banane, giù da te, voglia mia, città. Per carità. Ma ha toccato buona mano, dai, arrabbiato sì, vabbè, dai, tranquillo, gente. Aspetta, provo. poco la differenza da questa radio a un'altra radio basso, dai. Ok. Chi è che vuole entrare? Continua a mettere la porta così, mi toglie il QRM, dai. Dai che toglie il QRM, che bravo che sì. Che differenza c'è da questa all'altra? Tu? Ma se questo è effetto camera vuota. Cappa di positivo, vabbè, rumore della camera vuota sicuramente. Il segnale come è uguale a quell'altro. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, sei più basso, Fra. Guarda adesso, 1, 2, 3. Sempre basso rispetto a prima. Il segnale? Sì, sì. L'altra più forte. L'altra fa lo scala, cioè sì, 9, 20. Ok, dai, aspetta un attimo. Scappa. Ora, guarda adesso tu. Adesso sei tu. Quanto è? Fondo scala. Campo di positivo. La radio. Buona, efficace, ottima. Guarda adesso. Ora. Però se sei un po' distante dal microfono perché si sente. Vabbè, guarda un po'. Com'è? Per la radio? Il segnale, come il segnale? Buono. E non è su fondo scala, sì, cosa ha mai detto? Fondo scala? E allora, è un me più forte, se è proprio su mi, nel di mi. Scala di positivo, dai, quindi va bene, ok. Ottimo, ottimo. Scala di positivo, dai. Ne scanno poco, c'è il microfono vicino al baracchino. Ce l'avevo vicino alle cuffie, capito? E fate l'altro parlante e fa quell'innesco lì. Ok, dai, mi interessava quello. Se stava andando bene la storia qua, ok, la Kappa. Guarda a me invece il segnale, così, 1, 2, 3, guarda adesso. Fai il passaggio tu, che mi sto accordando la radio. Allora, questo è il passaggio. 1, 2, 3, prova di modulazione. Adesso guarda. Ora, 1, 2, 3, cos'è cambiato? 9,20. E prima? 9,5. Già, vabbè, dai, facciamo così. Già, va bene. Lascia così che va bene. La radio è sempre buona. Cappa di positivo, sì. Andate. Olia, binario 10. Con le calecca dice brutto. Non mi piace a me l'ecco, Tony. Vabbè. Tu quando dici binario 10, treno in arrivo, la domodossola, a non tenersi della linea gialla. Sì, vabbè, l'ecco magari lo puoi utilizzare in distanza, così va bene, ma in città non mi piace. Lo so, perché voi a voce non si comprende nulla, è un casino, Io mi sento nelle cuffie, che tollo. Vabbè. Cioè, vabbè, lo stesso, non va bene, però così è meglio la radio, dai, pulita. Tutta un'altra musica, ok. Ma certo che sì. Poi Fendi freddo, ma lo sai, caro Franco, sta facendo freschino. Ma c'è di migliore il tempo, boh. Io ho già fatto una bella giornata, però ripeto, la sera quando comincia il sole a calare, e no, chi tra calzona, si ghiaccia le mani, bisogna attaccare sullo scaldamento, no, che sennò si gatta un buco. E vabbè, lì c'è più freddo, nella città in campagna, così. E allora, poi sono sul cucuzzolo in alto io. Frenarito, io. Meno che pire la iatta, infatti manco una iatta meno che. Ci mancherebbe. I miei cucciolotti già sono sul divano, c'è una bella coperta grossa per loro, sono usati in chiave, ero gaglio. A voi c'è mai dalla televisione, quando c'è qualche cane che ammaglia la televisione, sa mai da su dalla televisione, neanche di lo fradito sulla mai bene. Il cane sotto i segani. Allora. Niente, stamattina si è avvicinato Snoopy, il cane di Roberto, quando c'è Jackie Russell, cosa vuoi? Non ti basta dice che l'udanno che hai fatto tempo fa, vai. L'anno da fare. Sta messo in città il mio piccolino, con la marroncina, che è uguale a Jackie Russell. E meno male che ne ha fatto due e molti pure, se non è un casino, fra. Ne ho avuto quattro cani io. Sì, si allucinante. Io la notte sentivo, ma cuccia, ma non pensavo che partoriva, cada mezzo bizzardo, comincia a pulire tutto quanto, santo Antonio mio. Allucinante. Tony, ciao Teofra, il compito è connesso là. Allora, io sono andato a Franco, mi ha connesso, perfetto. Arrivo a casa mia, non mi fa entrare, Luca, non lo so. Comunque funziona, l'hai provato, va bene. Da Franco va bene, da me non va bene, da me non... Tu hai detto che passavi, non mi fa entrare. Impossibile connettersi a questa rete, mi dà. Tu lì che passavo, sono appena, ma tu stai a fare appena, infatti. E cosa ne sapevo io? E mai se mi fate una chiamata e vengo io a prezzino, non c'è problema di Luca. Capito Luca? Sì, tanto questi giorni ho cose da fare più bene, Tony, se no vai pressa. Mi pare strano, che non c'è con il dillo. Vabbè tu Franco, non puoi uscire, se no tagliamo a due, non è il caso, ma vediamo un po' dai questa settimana, poi già ci sentiamo, ma vieni una mattina, vieni, mi prende e ci andiamo a farci. Luca, tranquillo, non ne ho fretta, non preoccuparti, capito? Non ci ho problemi. Io ho provato, ma non è che lì che sta andando male. Allora, ho tolto la connessione direttamente dal telefono della Vodafone, il wifi, ho messo link e mi va perfettamente bene, quindi la linea c'è, link, soltanto me la legge anche nel PC, però non mi va a entrare. Ascolta, ma hai fatto la condivisione col telefono, lo sai fare? Gli dai la connessione del telefonino? No, quello non lo so fare. Facilissimo, cazzo, Dori. Che telefono hai? Un Samsung AS22, quasi l'ultimo uscito, dai, l'anno scorso l'ho preso nuovo. Se vuoi ti faccio una guida, di come devi fare, ed è semplice. La serie, il telefonico c'è il Samsung, lo sblocchi, abbassi la tendina e devi cercare router wifi. Ascolta, è troppo complicato già. Luca, vai tranquillo, non mi voglio più fuori. Tranquillo, dai. Se riesci a venire a Franco, una scappata, non c'è problema. Se ho l'altra settimana, se sei libero tu, con calma, vengo io, ti prendo e ti porto qua. Vai, un cellulare, router wifi e connetti al computer direttamente in automatico. Io non ho capito perché tramite cosa, lì che non me lo fa, me lo visualizza tutto quanto, segnale a manetta, isolato, e non me lo fa. Mi devi dare la chiave, la password, devi metterci, se no ti fa entrare. Sì, no, ma se non metti bene la password, come è scritta, non ti fa entrare. Non è che la buoni, adesso maiuscolo e minuscolo, tu la buoni tutta maiuscolo, non ti fa entrare. Non mi fa entrare, Perché tu la stai scrivendo male? Capito, per quello che non ce la fa entrarci. No, non mi hai capito. Tu, quando eri a casa tua, che hai messo la password, a me quel passaggio non me lo fa fare, hai capito? Mi si connette direttamente e non mi fa entrare. Non mi pare strano a me. Fra, quando stai bene, se stai bene, con la scappata me lo dici, vengo io a prendere, non c'è problema. Se no aspettiamo a Luca, anzi tu sei ammalato, hai la gola in fiamme, la capigliina. Quando Luca è con calma, tranquillo, fra una settimana, 10 giorni, io problemi non ne ho, non è tutto di cambressa. Oh, tranquillo, posso entrare con il telefonino momentaneamente. Poi quando Luca è disponibile, vado, lo prendo e poi lo raccompagno. Però quello che dico io, che sembra un mondo strano che non riesce a entrarci, Non mi fa mettere la password, mi dà un'altra voce ancora, si connette automaticamente, sembra che sta cercando di e poi impossibile connessi su questa rete. Perché vuol dire che si sta collegando altre reti di vicino, capito? Non alla tua. Ma la mia è più forte, io ne ho due. Dunque, una era 2,5G e l'altra era 5G, quindi. E poi c'è l'altra, ma è più bassa il segnale, 2 a 3, non di più. Cosa col telefono come fai a entrare? Il telefono è già tutto connesso, sta a posto. Connessione dati, è tutto già programmato. Ah, ecco, e con router, no. Devi mettere la password del router, come ho fatto io qua, e ti fa entrare per forza. Io ho la password, ma è lì che stai parlando, del router. Certo, c'è scritto password. Fra, te lo ripeto due volte, o tre volte. non mi dà quella voce per mettere la password, picche. Oh, io non lo so come parla, cosa è possibile, ma il tuo router allora che non va. Ma cosa è questo? Il telefonino va, chissà perché. Io disconnetto la Vodafone, entro con la link sul telefonino, ma a fare con PC non ci riesco. Non sono manco io, non ricomprendo tutto. Scusa, col capo. Col capo. Te lo ripeto per la terza volta, Franco. Allora, il mio router, il mio coso del link, praticamente non c'ha la porta per entrare col cavo, andare in diretta e ADSL, capito? Ce n'è solo uno, se io tocco uno lì, è quello dell'antenna, della parabolina che c'è fuori, e allora picche, non posso fare nulla. Cioè, se tu vuoi collegare un telefono lì, non lo puoi collegare un telefono fisso, così è. Bravo, non lo posso collegare. Ho mandato un router di cavolo che non serve più. Fa una cosa, te lo dico io, prendi due router, non me le comprate, te lo tiri a testa quello. Allora io ho chiamato mio figlio, che mio figlio l'ha fatto mettere, e gli ho detto, ascolta, chiama di farmi cambiare il router, anche io sono andato a me. Lui ce l'ha con tante porte, tranquillo, c'ha due antennine sul router, io non ho manco un'antenna. C'è un minone, non un router. Ma cosa è so, tutto un caboluccio è. Ma ti pare che un router non deve avere le prese di uscita per collegare il computer? Ma stai scherzando? Franco, se mi faccio, lo faccio vedere, non io. Se voi ci vuoi una fotografia di vostro, non ce n'è. Riprendi Luca. Allora, scusate, sono qua in ascolto e sto facendo una cosa, Fra. Riprendo subito. Caraga, fratello, la vostra cambio, va bene, riprendi tu. Venga, quando sei meglio tu, così non disturbiamo Luca, quando sei meglio tu, dicendo, ti faccio vedere. Ora sì che, o sbaglio qualche cosa io, non lo so, io ci ho provato due o tre volte, ieri quando sei andato a casa, hai provato, va, alla fine di boh, basta. Ascolta, che router è Vodafone? No, io c'ho Linken. Ah, ho capito, Linken. Eia, vabbè dai. Non è che ho tutta questa urgenza che non me ne affrutti nulla. Anche quando io a Luca l'ho detto aggiustarmi il PC, ho detto fretta non ne ho, fai con calma, se hai da fare altre cose fatele, capito? Quindi, il più è ormai fatto. Ho visto che funziona bene, da te è tutto perfetto. Però o sbaglio qualche cosa io, Fra, senz'altro sbaglio io perché è possibile. O faccio qualche procedura sbagliata, non lo so. Sì, sì, cioè sbagli tu per forza. C'è qualche... Sicuramente non digiti bene la password, capito? Tipo quel problema lì. Ma non aspetta. Io non arrivo al punto come sei arrivato tu, che tu metti la password e ti fai entrare. No, a me non me la dà quel passaggio di mettere la password. Mi si connette automaticamente. E poi mi dice che non posso entrare su quella rete. Oh, c'è scritto connetti, tu vai a connettere e non ti fai entrare. Vado a connettere, se mi sta connettendo, ma non mi chiede la password. Hai capito adesso? E ora ti dice? Niente, dopo che connetto il computer, si vede che sta camminando. E poi ti esce la scritta. Impossibile connettersi con questa rete. Vai, risolvi il problema di rete, connessione rete, e vedi un po' cosa ti scrive. Non connesso a questa rete, non segnale. Oh, c'è cioè, evidente non è abilitata. E mi pare strano, non è abilitata, ma... Non è abilitata, tu mi puoi dire che è abilitata solo un'altra cosa. Cioè solo un telefonino, buco. E vuol dire che è abilitata solo per il telefono, per connetterti con altri... con altri, col piccino per connetterti. Stavo scherzando. Internet l'ho chiesto per il PC, giustamente. PC o telefonino sempre di giù. Allora fate cambiare il router. Ti fai dare un router che ci abbia le prese dietro. Non una presa. Io ce l'ho, c'ha 6 prese addirittura il mio. Vabbè, tu DSL, io faccio una cosa, provo a chiamare, perché mio figlio mi ha detto, ogni volta che chiamo ci sto 3 ore perché non... è sempre occupato, sempre occupato, non rispondo pure. Io provo a chiamare comunque, vediamo un po' cosa mi dice. Ma addirittura il mio, posso collegare anche la penna Bluetooth, capito? Mi posso collegare anche quel Bluetooth al mio. Questo non fa. Io bisogna che lo chiami, che ascolta, questo router è... scusi da capo, Fabio Azzeri. No, te lo fai cambiare, gli dici che purtroppo non ti va bene. Vuoi un router che ci abbia le prese d'uscita, almeno 2 o 3 prese d'uscita, e quello non va bene. Certo, se devo attaccare qualche cosa, non posso attaccare nulla, non aggiungo un pezzo. Beh, se lo già te lo cambiano comunque non è un problema. Sì, quello c'è problema. Se lo faccio clacca tutto e uso il telefonino, buonanotte. Ma se no vai a coso a preoccupare il router. Comunque, a parte sì, così, comunque, quella linea telefonica che avevo sul telefonino, 20 euro al mese. Un bel giorno vado a caricare 2 euro meno, c'è un aggiù preso, ho caricato 20. Ho chiamato la volta, sì sì, è aumentato di 2 euro, cioè voi aumentate senza dirvi niente. Mi dispiace, io sto cambiando gestore e adesso me ne vado via da voi. No, guarda, lì possiamo dare un'offerta, e cioè 100 giga, minuti limitati, quella con l'altro, e vabbè, quant'è 9,90? Perfetto, mi dia quello lì. Beh, ho fatto quella cosa lì, poi mi è arrivato all'indomani un messaggio che avevo per un anno intero messaggi illimitati, giga illimitati e non mi pare dire minuti illimitati. Quindi sono troppo tranquillo, 9,90, anziché 22 euro, la mazza gliene fa, raga, alla Vodafone. E anche io pago 10 euro al mese, ho minuti illimitati, internet è tutto ottoni. Ma me tempo fa io ho preso quello lì, c'avevo un bel po' di anni, come al momento di 2 euro non l'ho caduto, beh, ma tutto. E poi loro sono figli di buona donna, loro lo sanno, ce l'hanno queste promozioni, e che per farti spendere di più, c'erano quelle cose lì di fare, farti spendere di più alla persona, animale, e tutto mangia mangia di soldi, capito? E allora, ma e vabbè dai, e che vuoi ti dica? Niente, io ho sistemato un po' qua in questi giorni, però mi manca sempre uno spezzone per essere completo. Gaba gaba. Comunque, guardate l'altra radio, Offra, Noccia e Spinucci per dietro. Non so, guarda, cosa dirti. Io bisogna che o vado a Fusano e copro i Spinucci nuovi, però bisogna fare il collegamento sempre per, in base allo schema che c'è sopra lo stereo, guardare gli altoparlanti, fase inizio, eccetera. Ascolto lui, in quella radio c'era il circuito stampato. Non dici il vostro, positivo e negativo, c'è poco da sbagliare. E non accende, vuol dire c'è qualche problema. Ma se è nuovo, ha giocato un buchetto nella macchina, boh. Spento, è rottamato la macchina, boh. Ho fatto male a prendere Spinucci, quello sì, dobbiamo la pubblica, tagliare tutto. Vabbè. La pubblica, stavo a scollegarlo. Tu mi hai tolto la radio, devi scollegare anche lo spinotto dell'alimentazione. Invece ha lasciato tutto lì. Qui segna la granacchia, c'è la luce. Boh. Mi ho pensato fra. Da Fuggiaro forse già ci sono, 30 euro mi sa che costa. No, che costa di meno, lui. Me l'ho preso tempo fa per un'altra radio. Tutta una pizzeria, mi ricordo se fa pagare 12 o 15 euro, non mi ricordo. E vai e prova, poi mi dice la risposta, vai, chiedi. Scusa, te l'ho aumentato, eh. Vai e chiedi, e poi mi dice la risposta. Schifo, ma che avvino. Che ci faccio comunque? Domani faccio il salto. Ma chi te lo fate pagare 30 euro? Mare 20-25 euro te lo farà pagare, se ce l'ha non lo so. Io punto di domanda, non lo so se ce li ha. Prima ce li aveva. Adesso io sono a moto che non ci salgo da Fusaro, quindi non so cosa dirti. Domani ti saprò dire se avevi ragione o mi fa di meno, non lo so. O se mi fa di meno vuol dire che sono così simpatico, cosa ne gioco? Dilla Martia, parla con Martia tu. E cappa, perché un libro aveva venduti tempo fa, c'è una vita quella lì. Martia già ti tratta bene, ti fa lo sconto. Se ce l'ha il marito, non so che quello altro, e c'è il marito, mi sa. Non lo so se è il marito, non glielo mai chiesto, perché non sono un tipo che mi informa sulle cose che forse che hanno in gamba e da te avrei anche chiesto. Se è sposata, sì c'è, sì, peccato. E vabbè, sposato, l'ho sposata. Parla con lì che ti fa lo sconto, perché il compagno, il marito, quello lì, ti va a demagombe di nato, non ti rimba di sconto, capito? Non l'ha preso pieno. Lo so, l'interesse di loro è fare i soldi in più. Vabbè, dai, fra. Domani per curiosità vedo se stare in macchina e ci vado. Quell'altro che ho, che te, devo darti a te, che c'ha il video proprio, e quello lì c'ha tutto lo stesso, è un Magistick. Ma, andare. Quello l'ho tolto dalla Fiat e punto che avevo io, che mio figlio me la fusa, e tutto attaccato oggi ragazzo, ho fatto lo stereo, boh, via. Kappa, andare, e un attimo e vado a prendere un bicchiere di acqua. Kappa. Chi è avanti? Qui c'è un Natalia. Risolta la storia. Alle 3:15 mi arriva la corrente, la mazza viene a fare, non ho avuto né capire, né pozzetto, né freezer, se no ci no che mi scongela tutto, si rovina tutto. Infatti, quando manca la Ruzzi è un problema. C'era, ti ho mandato che cosa, ho visto il foglio che hanno messo, io non l'avevo neanche visto, che c'è l'interruzione dalle ore 9 che invece hanno tolta prima, sino alle ore 15, puzzinosi. Devo servire a guasso, la cabina anch'io e quando intervengono staccano tutto. Certo, dopo le trovi da quella corrente, no? Chi viveva un bel tensione, dice che era 260 volts, quindi era pericoloso che bruciavano qualche cosa, si guarda, attaccavano così a quella tensione lì. Aveva ragione che l'hanno stabilizzata a 220, 222, 225. E il trasformatore di cabina sarà stato, che faceva qualche difetto e allora sono dovuto intervenire per forza. Però strano, vedi, mia sorella che aveva molto un po' più giù, lì ce l'aveva la corrente, invece noi no, tutti noi no. E magari è attaccata da un'altra parte, capito? Ma va giù c'è ora, mamma mia. Franco è ancora così, lo sai. E non mi racconta già due, Edu. Se mi si impari, gatto, mi ha contagiato l'influenza. Sì, ma già me l'avevi detto. Vabbè, lui c'era contagiato da Edu, Edu era contagiato da te. Infatti, evidentemente non era guarita bene quando è venuta e si è pizzicato in pieno. Ma se può comodare quel Franco? Avanti già. Buonasera. Buonasera a tutti, dai. Doppio Lu. Avanti Lu. Ragazzi, facciamo una cosettina a 4, controllando la TV, la sto chiudendo, a posto, la sistemata. La devo consegnare. Venga a casa. Matta lì, davanti. Eia. Credevo che riprendeva qualche altro e loro ho lasciato bianco, capito? Curva cosa non posso validà. Cazzo, sono ogni tanto mi manca un ripiro. Ebbene, Nazarino, cambio, lascio e chiudo. Viene l'attaccato, zenzero e limone, Nazarino, sto prendendo e va bene. Veramente sto pigliando io. Se no ci sono le supposte di polagista. No, zenzero e limone, Nazarino. E va bene.